L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Di cosa parliamo in questa puntata? Di botanica. Il mese scorso la rete degli orti botanici della Lombardia infatti ha organizzato presso l'Università degli Studi di Milano un incontro aperto al pubblico sugli sviluppi e le prospettive della etnobotanica. Per noi è stata l'occasione di scoprire cos'è l'etnobotanica e per conoscere le attività di questa rete degli orti lombardi, che è poi l'unica rete regionale di orti esistente in Italia. Le nostre interlocutrici quindi sono due membri del consiglio direttivo della rete lombarda. Sentiremo tra pochi secondi Mara Sugni e a seguire Silvia Assini, che è anche ricercatrice di botanica ambientale applicata alla Università di Pavia. L'etnobotanica è quella disciplina che si occupa di studiare e di riflettere sulla relazione tra le piante e l'uomo nel corso della storia. Cosa fa un orto botanico? Dunque, un orto botanico... Che vale, penso, per la Lombardia come per gli altri, perché... Certo, assolutamente. Allora, l'orto botanico è quel luogo stranissimo dove le piante vengono coltivate per documentare appunto questo nostro legame fortissimo con il mondo vegetale. È anche un luogo dove si fa ricerca, perché le piante... ancora non le conosciamo benissimo, anzi assolutamente non le conosciamo tutte, di quelle che conosciamo sappiamo pochissimo, però potrebbero essere utili per noi, quindi è fondamentale sapere di più. Facciamo educazione e facciamo divulgazione, quindi siamo un pochino il ponte tra il mondo della conoscenza scientifica e quello della popolazione, insomma. Rendiamo accessibili delle informazioni che sono patrimonio di tutti e che si stanno perdendo perché, nel caso dell'etnobotanica per esempio, che si stanno perdendo perché è sempre più labile il legame tra uomo e natura e quindi viene meno la trasmissione orale di quelle tradizioni che si tramandano da millenni e che però sono patrimonio dell'umanità, quindi vanno assolutamente recuperate, valorizzate e promosse per il futuro. Io mi ricordo da piccola le scuole portavano i bambini a vedere gli orti botanici. Accade ancora? C'è ancora questo interesse? Sì, accade ancora, c'è tantissimo interesse. Gli orti botanici sono spesso luoghi accessibili gratuitamente, anche dove viene fatta cultura ad alto livello e quindi in questo periodo che particolare di crisi anche culturale, quasi un medioevo, cioè veramente noi registriamo un bisogno crescente di prodotti culturali di qualità e probabilmente questo è il motivo per cui siamo in sold out. Gli orti botanici sono spesso nelle città e questo è un vantaggio perché sono più accessibili per le persone e poi offrono dei servizi di interpretazione del patrimonio vegetale, culturale, eccetera, che altrimenti nei parchi non è possibile avere. Poi forse, non so, io sono del mestiere e ho questa deviazione. Quando viaggio vado sempre a vedere l'orto botanico in qualsiasi città io vada. Però penso che ci sia proprio anche il fascino della conoscenza che ancora attira le persone, per fortuna. Nel dire questo, che qualunque città io visito vado a vedere l'orto, allora forse da lì si può anche avere un polso, diciamo, della regione, di come quella popolazione di una certa area si approccia alla vita, alla natura, all'ambiente che la circonda? Assolutamente sì, durante le presentazioni che ho appena sentito durante il nostro convegno di etnobotanica si parlava proprio di come gli studi etnobotanici raccontano appunto le tradizioni delle popolazioni in relazione proprio all'area geografica, per cui non so, sono stati fatti degli studi che documentano che in Italia la pianta selvatica più utilizzata per l'alimentazione è la borragine, che quasi tutti conoscono, che ha degli usi officinali, degli usi alimentari, eccetera, e questo è, come dire, è patrimonio storico, è patrimonio dell'umanità, è patrimonio delle persone e significa che noi, se siamo capaci di custodirlo, avremo la possibilità di sfruttare le proprietà di queste piante anche in un futuro. Valorizzare l'utilizzo alimentare o comunque solo la conoscenza significa avere delle possibilità in più per curare le malattie, per esempio, in un futuro. O nutrire gli animali. Nutrire gli animali. Quindi anche un risvolto economico, diciamo. Certo, cioè nella vita. Certo, bisogna pensare che noi abbiamo le piante dentro la suola delle scarpe, che è fatta di gomma, nei vestiti, nei materiali, negli oggetti che utilizziamo, dalla carta, il legname. Tutto ciò che abbiamo deriva dalle piante, sostanzialmente. Anche gli alimenti che utilizziamo, che hanno origine animale, di fatto derivano da animali che si nutrono di piante, quindi... Silvia Sini, quindi è in questo contesto di cui si diceva che la rete degli orti della Lombardia sta cercando di uscire dalle mura dell'orto per raggiungere le persone. Che tipo di attività state programmando? Allora, io cerco di, diciamo così, portare avanti un'attività di valorizzazione in generale delle piante di un territorio e quindi della biodiversità locale di un territorio. Non tanto solo in funzione al fatto che le piante selvatiche possono essere usate per fare i vestiti, per essere mangiate, quindi pensare di tutelarle solo perché hanno un utilizzo diretto da parte dell'uomo, ma perché comunque contribuiscono a tenere in equilibrio gli ecosistemi. E quindi noi abbiamo bisogno di piante non solo perché ne traiamo un beneficio diretto o un beneficio economico e produttivo, ma perché la biodiversità, la ricchezza di organismi vegetali e animali è quello che mantiene l'ecosistema più stabile e quindi più resistente a perturbazioni di qualsiasi tipo ambientale che possano capitare. Quindi attraverso la mia attività cerco di far capire alle persone che dobbiamo il più possibile valorizzare la biodiversità. Questo lo si fa nelle aree protette, che però appunto non ritengo sia sufficiente, perché le aree protette al momento in qualsiasi, non solo in Lombardia ma in Italia, in Europa, al massimo occupano il 15-20% della superficie del territorio, quindi noi non possiamo pensare in così poco territorio di conservare tutta la biodiversità delle nostre zone. Tra l'altro non sarebbe neanche efficace da un punto di vista della protezione dell'ambiente, allora, della sua resistenza. Esatto, allora lo scopo è la gente deve imparare anche a così a gestire la biodiversità. Abbiamo imparato a gestire i rifiuti, abbiamo imparato a gestire le acque, stiamo imparando a gestire le risorse energetiche, impariamo anche a gestire la biodiversità. E in questo caso con la rete sto portando avanti il discorso di gestiamola nei nostri giardini. Impariamo a fare un verde in città, ma sia pubblico sia privato, che sia più in equilibrio con l'ambiente. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati, stiamo parlando di orti botanici e di tutela della biodiversità. L'occasione è stata il convegno di etnobotanica che si è tenuto alla Università degli Studi di Milano, che ha avuto tra i suoi organizzatori la rete degli orti botanici della Lombardia. Due membri del consiglio direttivo di questa rete sono i nostri ospiti. Stiamo parlando con Silvia Assini, che è anche ricercatrice all'Università di Pavia, di come tutelare la biodiversità direttamente nel nostro giardino. L'altra voce che sentirete nel corso di questa intervista è quella di Mara Sugni, anche lei della rete degli orti lombardi, che, come dicevamo, è l'unica rete regionale di orti esistente in Italia. Ma allora torniamo ai nostri giardini con Silvia Assini. Io, suggerisco sempre due percorsi. Allora, il primo percorso è: cerchiamo di non usare più nei giardini delle specie vegetali che abbiamo importato da altri paesi e che purtroppo è dimostrato che si sviluppano in maniera molto aggressiva negli ecosistemi naturali, vanno a competere con le nostre specie tipiche e le fanno sparire. Cito qualche esempio, tanto per rendere, diciamo così, un po' più efficiente la comunicazione. Mi viene in mente la robinia. La robinia è una pianta che è molto amata perché si può fare il miele, perché esteticamente è bella, perché si usa anche per fare il legname. Però la robinia si è diffusa in maniera pesantemente, è di origine americana, anche al di fuori degli ambienti coltivati. Oggi troviamo robinia lungo anche i boschi naturali che avrebbero dovuto essere fatti di querce, di carpini, di aceri, di piante, diciamo, nostre. Autoctone. Esatto, autoctone. C'è anche l'ailanto, lo stesso, che è una bestiaccia, o meglio una piantaccia, che dà problemi di questo tipo di biodiversità, oltre di altro tipo. Quindi questa è una prima linea che porto avanti. L'altra invece è: se vogliamo anche gestire bene la biodiversità nei nostri giardini, possiamo coltivare piante selvatiche che sono tipiche dei nostri territori. E quindi questo è un po' il senso di seminari che ho fatto quest'anno all'interno della rete degli orti, dove porto anche degli esempi, perché siamo negli ultimi 2 o 3 anni sono riuscita a realizzare piccoli modellini anche di aiuole fatte con queste piante spontanee, che possono essere così prese come esempio, perché la gente appunto spesso non conosce le piante spontanee. Ma io penso anche riconosce, esatto, proprio, esatto. Perché è una competenza che i nostri genitori, insomma, anche i nonni per carità, avevano, anche quelli che vivevano in città, perché comunque sì, le città erano più piccole, la situazione era molto diversa. Lo scopo è proprio questo, cerchiamo di far vedere che in giardino possiamo usare anche le piante selvatiche, se le usiamo magari, non so, facendo delle macchie, delle belle macchie con un'unica specie, perché il problema di usare le piante selvatiche in giardino è che tendenzialmente le piante selvatiche hanno dei fiori un po' poco appariscenti, quindi la gente può dire, beh, però insomma, non hanno un effetto estetico, esatto. Però l'idea è, no, cerchiamo di accorpare, facciamo delle belle macchie con una specie, quindi quando c'è la fioritura, insomma, si nota. Poi, ovviamente, non possiamo metterle tutte, perché anch'io capisco che ci sono alcune piante selvatiche che effettivamente non sono molto carine, però in realtà facendo meno quella che è la mia esperienza degli ultimi anni, mostrandole queste piante, io trovo che la gente apprezza. E soprattutto l'altro lato apprezzabile dell'uso di piante selvatiche è che, essendo piante che si sono evolute nel nostro territorio, sono quindi adattate alle malattie, sono adattate alle condizioni ambientali, tecnicamente se io metto le piante giuste al posto giusto, cioè le piante selvatiche che normalmente stanno in ombra, le metto in un giardino in ombra, quelle che stanno al sole le metto al sole, eccetera, anche la manutenzione si abbassa moltissimo. E questa secondo me è una cosa da non trascurare alla luce di tutti i problemi, appunto, uso di acqua, uso di energia, che oggi invece insomma sono, come dire, vanno gestite in maniera oculata. Quindi lei diceva, ha fatto dei seminari in cui i partecipanti potevano imparare appunto a gestire il loro giardino in una maniera più consona, diciamo, alla nostra, più sostenibile, e anche forse riportandoci a quella che è appunto l'aspetto della pianura padana in questo caso, oppure comunque la Lombardia ha tanti paesaggi, sì, poi alla fine. Quindi sì, diciamo che io punto in questo momento sulla pianura padana perché comunque è scientificamente dimostrato che è il territorio che sta, diciamo così, subendo la più alta perdita di biodiversità in questo momento, cioè rispetto chiaramente alle nostre montagne, alle nostre colline, dove ci sono anche lì dei problemi di conservazione, però credo che sia sotto gli occhi di tutti che la pianura padana, tra l'agricoltura intensiva e il consumo di suolo che diventa sempre più eccessivo, chiaramente sta subendo insomma una perdita di biodiversità altissima. E siccome a livello di comunità, di Unione Europea, ci arriva questo segnale che arrestare la perdita di biodiversità oggi è un obiettivo cruciale per tutti i territori, io credo che anche il singolo, se impara nel suo giardinetto a fare qualcosa e tutti fanno qualcosa, alla lunga si può creare comunque si contribuisce comunque a salvaguardarla. Chi sono i partecipanti a questi seminari? Cittadini di tutte le età, allora, non so, gente che abita in campagna, sì, gente che abita in città? No, secondo me tutte le età no, perché secondo me chi ama il giardino ha un target d'età che comunque è già sopra i 35-40 anni, secondo me. Cioè il giovane, secondo me, è un target un po' difficile da raggiungere in questo momento, ma perché in generale a quell'età si pensa ad altro, almeno la mia percezione, poi non so se le altre... Le scolaresche, abbiamo un programma di adozione di semi delle piante, delle specie autoctone, che al di fuori dei seminari, cioè, ci sono altre iniziative che raggiungono altri target. Per esempio, con le adozioni dei semi abbiamo visto che c'è molto interesse, perché comunque il discorso biodiversità viene affrontato nelle scuole, e la nostra iniziativa Adotta un seme, che propone appunto l'adozione di semi di piante spontanee e di piante autoctone, funziona, cioè riscuote un buon interesse, perché gli insegnanti lo scelgono ovviamente, però anche nei bambini è facile comunicarla questa cosa. Comunque trovo che c'è sensibilità, cioè chi viene ha voglia di imparare cose nuove, di fare il giardino in un modo nuovo, e se tu gli spieghi le motivazioni trovo che sia molto, molto sensibile. Tanto è vero che noi quest'anno con la Rete degli Orti, il progetto che noi tutti gli anni facciamo, un progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia, sarà proprio sul tema di costruire queste aiuole con piante spontanee, sia dentro gli orti, quindi fare un modellino all'interno degli orti, ma possibilmente, se riusciamo a trovare l'aggancio col comune in cui è situato l'orto, farne anche uno all'esterno, quindi l'orto che esce e si pone in città per far vedere esempi di piccoli spazi verdi, un piccolo spazio verde fatto. Stavo pensando proprio a questo, pensavo ai tanti piccoli spazi verdi che ci sono nelle città, che anche lì spesso vengono decorati con quello che c'è. Esatto. È chiaro che questo deve anche accompagnarsi un po' a un ripensamento del modo di vedere il giardino, cioè, ripeto, tutti hanno un po' l'idea del giardino come di una cosa tenuta molto bene, molto geometrica, molto pulita. Oggi proprio, visto che la situazione ambientale, la situazione economica ci sta portando davanti a sfide di un certo spessore, è chiaro che anche il verde urbano deve essere ripensato. Non dico che deve essere un verde selvaggio, completamente trascurato, però magari non si può pensare che siano sempre i prati rasati. Se vuoi portare le piante spontanee e selvatiche, devi accettare che i prati magari crescano 50 centimetri, che stanno 50-60 centimetri, ci sono le piante selvatiche che fioriscono, fanno la loro funzione non solo per le piante ma anche per gli insetti, eccetera. E quando hanno finito il loro ciclo si fa una bella sfalciata. Ecco, chiaro che bisogna un attimino accettare, per cui magari questo modello, diciamo, non lo vedo proponibile magari proprio per i centri città, che sono, come dire, devono essere magari un pochino più puliti, però tutte queste zone di frangia, di contatto tra la città, la campagna o zone marginali, secondo me si prestano. Siamo riusciti qui a Milano a fare qualcosina, abbiamo fatto un piccolo allestimento alla Cascina Cuccagna, ne abbiamo fatto uno ai Giardini Montanelli addirittura, dove c'è una zona della Roccaglia, e ne abbiamo fatta una anche ai Giardini Lea Garofalo, grazie anche a queste associazioni che gestiscono i giardini condivisi. Quello che mi preme sottolineare, quando si parla comunque di uso di piante selvatiche, è di ricordarsi sempre che l'Italia ha queste due facce, la faccia mediterranea e una faccia centroeuropea, e quindi se vogliamo valorizzare la biodiversità qui in pianura dobbiamo usare le piante della pianura. Ecco, non mettiamo il leccio qui in pianura pensando che favoriamo la biodiversità. No, mettiamo un carpino bianco, una farma. Le tamericine lasciamola dove stanno. E chiudiamo sui vostri rapporti con gli altri orti, forse, nel senso con quelli d'Italia, intendo dire. Qui c'è una rete organizzata, eccetera, eccetera. Ci sono o non ci sono reti con cui voi avete rapporti nel resto d'Italia? Allora, no, la nostra è l'unica rete italiana, organizzata, costituita formalmente. Che io sappia, non ci sono neanche reti in via di costituzione. Noi abbiamo in mente di costituire una rete italiana per l'educazione negli orti botanici, perché uno dei nostri così pillars di attività è proprio quello dell'educazione, e il fatto di lavorare in rete con altri orti botanici ci arricchisce, perché le competenze in questo ambito vengono dalla condivisione, dal confronto, eccetera. E siccome siamo stati promotori di diverse iniziative di formazione per chi lavora in questo settore, per chi si occupa di educazione negli orti botanici, abbiamo in qualche maniera già stabilito una sorta di network, che però non è formalmente costituito. Ci piacerebbe nei prossimi mesi, anni, dare forma, dare struttura a questa cosa, perché riteniamo che sia fondamentale, siccome di fatto il nostro lavoro è proprio quello di tradurre per le persone comuni il linguaggio della scienza. Se non siamo capaci di parlare alle persone, abbiamo un pochino perso la partita. Ed è tutto per questa puntata. Ringraziamo le nostre ospiti, Mara Sugni e Silvia Assini, entrambe del consiglio direttivo della rete degli orti botanici della Lombardia. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, buon ascolto.